ci attendo. Dopo stattino alle grandezze io nacqui, la stella assai più chiara il mio genio illustrò. Quindi risolvo rapire la gentana le ragion prime, e fra gli allori e l'armi contari unita al re al trono alzarmi. Illustre il bel desio, tu che fedel mi sei, ecco la frode in vento e alla sua ora espandendo rapporta e seco d'aria finte e che infelice son di me ore pene. Ma ricevi io da te silenzio e fede. Sarò dei cenni tuoi non lento esecutore, all'ardor mio questo nuocer non può. Grand'onta aspetta,